in primo piano. Giovedì 14 ottobre, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alle borse, la Fed risveglia le borse, liquidità per la crescita. E poi le aperture come scelte dei giornali, c'è ancora chi si concentra sulle vicende pseudocalcistiche. Italia-Serbia, tensione scuse, questa è l'apertura del Corriere. Ultra tensione Italia-Serbia per il Messaggero, per la Stampa, follia ultra Genova, tensione Italia-Serbia. Tra l'altro vi ricordo il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano sarà nostro ospite alle 8:20 per l'intervista. La Repubblica, la RAI sospende Santoro. Per il giornale vogliono insabbiare la casa dei Fini, l'affare di Monte Carlo ancora. Il Fatto Quotidiano è su Santoro, roba da Zimbabwe. L'Unità, non degni, emette in prima pagina Bertolaso. Masi, direttore generale della RAI, Maroni per le vicende immagino di Genova e poi non degni sono sullo sfondo i non candidabili, no, di Pisanu, l'allarme di Pisanu dell'antimafia. Vedremo altre aperture dei quotidiani durante la rassegna stampa. Io però voglio partire da una notizia che viene pubblicata dal Corriere della Sera, pagina 33, con Giovanni Bianconi. Una notizia che ha solo il Corriere della Sera, mi ha molto colpito. I parenti delle vittime convocati via posta per perdonare Gallinari. La convocazione è stata recapitata agli interessati a mezzo posta, come fosse l'invito a ritirare una multa o qualche altro atto giudiziario, ma non c'erano infrazioni da contestare, né i destinatari avevano cause pendenti. Solo il destino di aver avuto un parente ammazzato 30 anni fa o giù di lì, e adesso lo Stato bussa a casa loro per chiedere se hanno intenzione di perdonare uno degli assassini del proprio congiunto. Come fosse una banale adempienza burocratica, mogli, figli e figlie di vittime delle Brigate Rosse vengono chiamati in commissario per rispondere a un quesito talmente intimo e complesso da suonare stonato, tanto più se a porle a un imbarazzato ispettore di polizia su ordine di un magistrato, il quale a sua volta dovrà decidere se liberare o meno l'assassino. Insomma, la vicenda riguarda Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Aldo Moro, arrestato nel 79 e condannato a diversi ergastoli da alcuni anni di detenzione domiciliare, ora ha il permesso di andare a lavorare per qualche ora al giorno e ha maturato i termini per chiedere la liberazione condizionale dopo 26 anni di carcere scontati, anzi più di 30, dice Bianconi. E che ha fatto il magistrato prima di decidere se dare la libertà a Prospero Gallinari? Ha deciso che vuole interpellare i familiari delle vittime per sapere se vogliono perdonare l'ex terrorista. Ed ecco qui che sono partite le convocazioni da parte del magistrato ai vari familiari delle vittime. Tra questi anche Sabina Rossa. Sabina Rossa, per la verità, è stata convocata la vedova ultra ottantenne di Guido Rossa, la signora Maria Silvia. Però è andata al suo posto Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, assassinato il 24 gennaio 79, operaio sindacalista. Sabina Rossa oggi è parlamentare del Partito Democratico e ha detto questo metodo del magistrato è totalmente sbagliato. Il perdono della persona offesa non è richiesto dalla legge, i magistrati devono assumersi le loro responsabilità senza tenere conto di elementi non previsti dal codice. Insomma, una storia che mi ha molto colpito. I parenti delle vittime convocati via posta dal magistrato per sapere se intendono perdonare Prospero Gallinari, perché quel magistrato poi deve decidere in base, immagino, anche alle varie risposte che otterrà dai parenti se poi procedere con questa liberazione. Direi che il tema che porta a considerazioni anche politiche più interessante oggi sui giornali probabilmente è quello dello stop alla riforma dell'università. Stop alla riforma dell'università. Leggo dal Sole 24 Ore, Eugenio Bruno, a pagina 7, vertice Tremonti-Gelmini alla Camera, l'esame slitta dopo la sessione di bilancio. Cosa è successo? Il mantra di questi tempi, non ci sono soldi, e Tremonti ieri l'ha ribadito, tanto che in prima pagina del Sole 24 Ore c'è anche l'editoriale affidato a Giorgio Santilli, quella riforma senza fondi né tempo. Il governo e la maggioranza che ancora lo sostiene hanno perso un'occasione per dimostrare che la svolta della concretezza annunciata da Silvio Berlusconi è davvero in grado di affrontare i problemi prioritari del paese reale. La riforma dell'università è certamente in cima a queste priorità. Ieri è stata affondata in Parlamento nella veste che aveva faticosamente assunto durante il passaggio in Commissione Cultura alla Camera. Un doppio parere negativo espresso da Tesoro e Ragioneria non lascia speranza sulla copertura finanziaria del provvedimento. Tutto da rifare. E ora si torna in alto mare ed è proprio questo lo scenario anche di uno scontro che il Corriere della Sera dice c'è stato, uno scontro nel senso su questo tema dei soldi, del non ci sono soldi, uno scontro tra il ministro Gelmini e il ministro Tremonti, tanto che Francesco Verderami firma quello che ormai viene definito così, anche leggo dall'occhiello, no, dal titolino sul Corriere, il retroscena, no? Sapete che ormai, io l'ho detto, ormai si vive sui giornali di retroscena della politica, ci sono i retroscenisti, ebbene ormai vengono definiti così gli articoli, il retroscena, eccolo qua, a pagina 2, il Premier ferma i suoi ministri, Giulio esasperante ma non si tocca. La logica della politica è la logica dei numeri. Fino a ieri questa era la linea di confine che separava Berlusconi da Tremonti, una sorta di trincea dove per 2 anni si sono registrati ripetuti scontri tra il Premier e il titolare dell'economia. Ma nel conflitto in seno al governo ora c'è un salto di qualità, racconta Francesco Verderami. Il problema non è più se Bondi si appresta a chiudere alcune sedi all'estero della cultura e si dice stanco di coprire decisioni altrui mentre vengo fischiato ovunque vada. Il problema non è se la Prestigiacomo minaccia oggi di dimettersi perché non intendo passare alla storia come il ministro dell'ambiente che ha chiuso i parchi. O se al guardasigilli vengono negati quei fondi che pure Berlusconi aveva reclamato. Il punto è che il commissariamento dei dicasteri operato da Tremonti viene visto dalla maggioranza dei rappresentanti del governo del PDL come una sorta di commissariamento del Premier, della sua leadership, di quel ruolo guida che gli elettori gli hanno affidato con il voto. E allora ecco che, secondo Verderami, molti dei ministri sottovoce si riconoscono nella tesi sostenuta da Montezemolo, che ha puntato l'indice contro Tremonti chiamando Berlusconi ai compiti che gli spettano. Solo Sacconi e Brunetta hanno difeso l'inquilino di via 20 settembre. Insomma, il problema è quello. Il superministro, dice Verderami, Tremonti ha blindato le tabelle, si è politicamente blindato, è incurante delle rimostranze a cui andrà incontro. Siccome ho dalla mia la forza di necessità, l'Europa, i mercati, l'approvazione del Presidente del Consiglio. Questo è il tema, non ci sono i soldi. L'ira della Gelmini anche sulla stampa, che avrebbe detto retroscena, anche qui, titolo, retroscena. A questo punto non è più un problema mio, ma di Tremonti. Si assume la responsabilità di dire che i soldi per la riforma non ci sono. Anche il Foglio fa il commento, uno degli editoriali, su Tremonti, il dovere della fantasia. Chi ha parlato con Giulio Tremonti ha appreso con sollievo che la frase rozza sulla non commestibilità della cultura il ministro non l'ha mai pronunciata, perché si era sparsa la voce che Tremonti, di fronte ai tagli della cultura, avesse detto nei giorni scorsi la cultura, nessuno si mangia la cultura, no? Però pare che questa frase non l'abbia mai pronunciata. Ma è qui il punto, però, si chiede il Foglio. C'è una via di uscita dal circolo vizioso del rigorismo? Come si fa senza un ragionevole sostegno dei capitali privati, garantiti in qualche caso da impegni di finanza pubblica, a stimolare la crescita, a sollecitare i consumi, a determinare una netta inversione di tendenza nella crisi? Tremonti ha molte ragioni dalla sua parte, ma deve fare uno sforzo di fantasia, deve cercare di limitare il suo peraltro interessante cinismo, la sua alterigia militante. Una volta era accusato di finanza creativa, ora si limita a ricordare che la finanziaria tradizionale non c'è più, e per fortuna, che non c'è più l'assalto alla diligenza. Saranno solo tabelle, dicono all'economia, e si vedrà se nel decreto mille proroghe a tempo debito potrà essere ribadita la defiscalizzazione. Non è un po' poco, signor ministro? Ecco qui il Foglio sprona Tremonti a dire va bene il rigorismo, ma un po' di fantasia. Mentre questo è il vero retroscena sulla riforma dell'università. Io l'ho trovato in piccolo, ma Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore fa un corsivino che dice ma buttiamo lì un sospetto, un'idea. Dietro il rinvio di questa riforma dell'università c'entrano i fondi destinati ai partiti? Questo perché? Perché la domanda, scrive Eugenio Bruno, sorge spontanea leggendo l'articolo 25,11 del disegno di legge, quello affossato, che da un lato assegna ai finanziamenti maturati dalle forze politiche il compito di pagare i bandi per l'assegnazione dei futuri assegni di ricerca, dall'altro vieta le operazioni di cartolarizzazione, con tutte le difficoltà del caso per chi, come il PDL, i rimborsi li ha già cartolarizzati da anni. Cioè, traduco, c'è un articolo del disegno di legge che dice la copertura degli assegni di ricerca per i ricercatori viene dai finanziamenti maturati dalle forze politiche, però vengono vietate le cartolarizzazioni, e quei partiti che hanno già cartolarizzato i rimborsi si sarebbero trovati davanti a un piccolo problema da affrontare se fosse passato questo disegno di legge. E allora il Sole 24 Ore la butta lì. Dietro il rinvio ci sono forse il problema legato ai fondi e ai partiti? Ma piccolo giallo. Per quel che riguarda invece la politica più in senso stretto, c'è Fini che dice, incontrando i parlamentari europei, da Futura Libertà mani libere alle comunali, questo sia sul Corriere sia sulla Stampa, mani libere alle comunali, ma che sia un retroscena più retroscena dei retroscena, cioè che il portavoce di Fini dopo ha smentito questa cosa, quindi ormai non si riesce neanche più a credere se il retroscena sia vero o se la smentita del retroscena sia più vera. Retroscena anche su Repubblica. Claudio Tito è colui che ipotizza la soluzione prevista da Berlusconi per affrontare i problemi da lui stesso denunciati pubblicamente all'interno del Popolo della Libertà. E ora Berlusconi vuole un Tea Party, cioè quei movimenti nati da Sarah Palin, che era la candidata tra i repubblicani, nel ticket dei repubblicani contro Obama, e che poi quando è stata sconfitta ha inventato questi Tea Party della destra ultraconservatrice, un movimento appunto che si basa su alcuni concetti molto, molto chiari: Dio, patria ed esercito. Questo è uno degli slogan. Ebbene, Berlusconi, secondo Claudio Tito di Repubblica, sta per seguire l'esempio della destra americana. Bisogna dare alla gente un nuovo sogno, diceva il premier nei giorni scorsi. Possiamo farlo con una cosa simile ai Tea Party americani, il movimento della destra ultraconservatrice. Puntare sulla lotta agli immigrati, la difesa della vita, questi gli elementi, e questo starebbe studiando tutto, pensando di utilizzare anche Daniela Santanchè come la Sarah Palin italiana. Daniela Santanchè come la Sarah Palin italiana. Questo su Repubblica. E Mediaset come la Fox, perché la Fox TV di Murdoch ha dato con il suo Glenn Beck, un noto commentatore della Fox News, è diventato un po' il presentatore di tutte queste manifestazioni di Tea Party, e secondo Repubblica ci sarebbe già la struttura, in questo caso Mediaset, come la Fox, e Daniela Santanchè la Sarah Palin italiana. Staremo a vedere se anche questo è un retroscena oppure no. Come detto, la prima pagina dell'Unità punta su questa foto non degni, mettendo un po' un guazzabuglio, Bertolaso, Masi, Maroni e i non candidabili citati da Pisano. Tra l'altro l'Unità a pagina 4, 5, 6, 7 elenca quali sono i non presentabili secondo l'Unità a cui si riferiva Pisano nella lista della Commissione Antimafia. Li leggo così: è Roberto Conte, Alberico Gambino, Sandra Mastella, Tommaso Signorelli, Antonio La Rupa, Sergio Stancato, Cosimo Cherubino, Pasquale Tripodi, Vincenzo Cesario, Giancarlo Cito, Salvatore Tato Greco, Cosimo Mele, Marco Meligrati, Gianluca Rinaldin, Giancarlo Abelli. Questi sono quelli citati dall'Unità, ovviamente con tutti con o le condanne o i problemi giudiziari che stanno affrontando in via di processo. Non degni ma eletti, ecco la lista. C'è anche due pagine contro Scopelliti, il governatore della Calabria, un pentito accusa Scopelliti, le 'ndrine lo hanno appoggiato. Insomma, politica e non degni secondo l'Unità, riprendendo quello che ha detto il presidente antimafia Pisano. Ora bisognerebbe aprire l'ampio, molto ampio capitolo dedicato a Michele Santoro, che trovate sui giornali. Alcuni giornali ci hanno aperto, come Repubblica, la RAI sospende Santoro, insulto a Masi, Santoro sospeso per 2 giornate. I commenti sono tantissimi, Aldo Grasso parla di martire, dice nel suo commento in prima pagina del Corriere della Sera: nuovo autogol, così l'azienda punisce se stessa. Nel martirologio di Michele Santoro un posto d'onore spetta Mauro Masi, l'ennesimo cartellino rosso che il direttore generale della RAI ha sventolato davanti agli occhi del conduttore, comporta 10 giorni di sospensione. È il tema del nostro sondaggio, vi chiediamo: secondo voi è giusta questa sospensione oppure no? Devo dire che il Messaggero fa il gran colpo, perché intervista Mauro Masi. È l'unico giornale. C'è da dire che sono un po' stupito. A pagina 5 viene messo in taglio basso, forse un po' più di risalto a questa intervista. Andava data, e invece viene un po' relegato lì in fondo Mauro Masi. Alberto Guarnieri lo raggiunge. Ma lei lo sa, esordisce così Mauro Masi, che alla BBC, solo per avere ironizzato sul direttore generale con un messaggio su Facebook, un dipendente è stato licenziato? Licenziato! Mica 10 giorni di sospensione, scandisce così Masi. Non urla, ma è senz'altro arrabbiato, racconta Alberto Guarnieri. Guardi che io non ho paura, non ne ho mai avuta, non ne ho oggi. Disproporzionato, sento tante dichiarazioni che inventano i dietrologi e scenari del tutto inventati, dimenticando il punto fondamentale di questa vicenda, che è che milioni di italiani hanno visto in diretta televisiva un dipendente che manda platealmente a quel paese il suo capo azienda. Ciò è totalmente intollerabile in punta di diritto e nel senso comune. Tutto il resto è fuffa. E poi Mauro Masi dice, scusi, 10 giorni, che vuol dire? 10 giorni vuol dire... Scusate, una o due puntate che salta. Sono 2 le puntate che salterà, non una soltanto. E poi stasera però va in onda Santoro. Se la critica, se mi attacca ancora, lo licenzio. Il Riformista ipotizza: Masi sospende Santoro, al suo posto Ruotolo? Perché questa è l'idea, cioè la sospensione è per Santoro, non per anno zero, tanto che Santoro starebbe addirittura preparando, secondo qualcuno, oggi va in onda regolarmente, ma dalla prossima volta, quando settimana prossima non andrà in onda per 2 puntate, dice: e se manda in onda Ruotolo, cioè il suo collaboratore più fidato, e fa una puntata contro Masi? Travaglio fa un'intervista alla Stampa e dice: Masi obbedisce al Premier. Il Fatto Quotidiano apre in prima pagina nettamente su questo, con il titolo, ma perché mi perdo sempre tutto, roba da Zimbabwe, eccolo qua, questo è il titolo di apertura del Fatto, mentre Vauro un po' vince con la sua vignettona, una mega vignettona sul Manifesto. Allora, è un po' difficile, è un po' lunga. C'è un... l'avete visto quella bestia, no? Quel serbo, il capo dei tifosi, che è tutto tatuato, che è stato arrestato. Ecco, c'è quello lì, col teschio, ma la faccia di Mauro Masi. E allora, arrestato l'ultra serbo che ha fatto sospendere la partita al Marassi. E poi c'è, appunto, questo ultra serbo con la faccia di Mauro Masi, ancora a piede libero, l'ultra servo che ha fatto sospendere anno zero alla RAI. Dall'ultraserbo all'ultraservo in RAI per Vauro, graffiantissimo oggi nella sua vignetta del Manifesto. Come, tra l'altro, ricordo, ne parleremo poi col sottosegretario Mantovano alle 8:20 di questa vicenda Italia-Serbia, che però continua a creare molti problemi, graffiantissimo e molto cinico oggi Iena, Riccardo Barenghi, pagina 3 della Stampa. Serbi, la colpa è di D'Alema, doveva bombardarli meglio. Vabbè, il Sole 24 Ore in prima pagina torna sulla questione delle borse, o meglio, punta l'accento sulle borse. Quello su cui torna invece è la questione dell'evasione fiscale. perché abbiamo parlato di Serpico, questo nuovo sistema. Abbiamo parlato ieri di come la Guardia di Finanza sia sobbalzata di fronte al fatto che, incrociando i dati sui professionisti, su 1000 credo professionisti, ieri si è scoperto che il 30%, uno su tre, ha un'evasione totale. Ebbene, la Guardia di Finanza setaccia le collaborazioni, insistono. Ancora oggi Marco Mobili racconta, dopo i professionisti, il faro sarà puntato sui compensi extra di pensionati e dipendenti. Accidenti, fanno proprio sul serio nel nucleo speciale entrate della Guardia di Finanza. Finiranno a breve ora anche i professionisti, intanto incapienti, ovvero quelli che forse si credono anche più astuti dei 400 evasori totali e che nascondono al fisco una parte delle consulenze, nella speranza che quanto dichiarato possa convincere i controllori. Quindi ora occhio agli incapienti. E poi in terza battuta sarà il turno di dipendenti e pensionati che arrotondano stipendi e rate mensili con collaborazioni occasionali e su cui è stata operata una ritenuta d'acconto. In sostanza saranno incrociati i dati dei contribuenti con i titolari di partita IVA che presentano più CUD ma che non hanno effettuato alcun conguaglio su eventuali compensi extra percepiti nell'anno. Insomma, la Guardia di Finanza è scatenata da questo punto di vista. Io sono contento, chissà il mio amico Oscar Giannino che ne pensa di tutto questo grande attivismo. Poi glielo chiederò quando arriva, Il Sole 24 Ore sempre fa sapere che con Dino Pesole nel frattempo che le entrate tengono un calo dello 0,8%, perché nei primi 8 mesi dell'anno le entrate tributarie evidenziano un calo del 2,4% che si riduce allo 0,8%, in soldoni 6,3 miliardi di euro, al netto delle una tantum. Una flessione, secondo il Dipartimento delle Finanze, imputabile al previsto minor versamento a saldo registrato a febbraio 2010 dall'imposta sostitutiva su interessi e altri redditi da capitale nell'andamento dell'autoliquidazione al previsto venir meno delle una tantum. Comunque le entrate tengono anche se c'è un calo dello 0,8% nei primi 8 mesi dell'anno. Sono nella segnalazione conclusiva, sempre al Sole 24 Ore. Voi dovete comprarlo e andare a pagina 47 di Finanza e Mercati, anche se c'è un richiamo in prima pagina, perché nasce l'ottava meraviglia. È la casa del magnate indiano Ambani, Mukesh Ambani, presidente del colosso petrolifero Reliance Industries, che ha fatto. Si è costruito una casa a Mumbai che costa $1 miliardo. Sarà la casa più grande del mondo. Verrà inaugurata il 28 ottobre, come dire, è fatta di quanti piani? 27 piani, intervallati da piscine, giardini, appartengono alla sua famiglia. Ci sono ovviamente l'eliporto per atterrare, i primi 6 piani saranno tutti per parcheggiare 180 posti auto, anzi 168. Ci sarà questa inaugurazione, qualcuno ha fatto notare il cattivo gusto, insomma, Mumbai, proprio, tra l'altro vicino a delle baraccopoli incredibili, ci sarà questa struttura. Non si sa neanche, non voglio neanche sapere quanto sia costata. Secondo la rivista Forbes, d'altronde, Mukesh Ambani è l'uomo più ricco del mondo, lo sarà nel 2014, quindi non ha grandi problemi, una fortuna personale stimata in $29 miliardi. L'India scopre la reggia di Ambani, andate però poi a vederla e scoprirete di come sarà anche la casa più grande del mondo, ma architettonicamente è una delle case più orrende che io abbia mai visto, tanto da far pensare poi che qualcuno, come il soprintendente di Napoli, possa considerare le vele di Scampia un patrimonio culturale e architettonico da preservare. La casa più grande del mondo, aggiungo io, una delle più brutte mai viste, sorgerà in India. Il GR.